Europa 24. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchisi su Europa 24. La bilancia dei pagamenti dell'Unione Europea ha registrato un surplus di 32,2 miliardi di euro, pari all'1% del PIL nel primo trimestre del 2014. Nell'ultimo trimestre del 2013 l'avanzo era di 26,3 miliardi, mentre nel primo era di 24,9 miliardi. Questa è la prima stima di Eurostat. Rispetto ai tre mesi precedenti, il surplus è sceso per i beni e i profitti, mentre è cresciuto per i servizi. E invece è leggermente aumentato il deficit dei trasferimenti correnti. Con l'arrivo della bella stagione si moltiplicano gli sbarchi di immigrati in tutto il Mediterraneo. Soltanto oggi la Marina Militare Italiana ha salvato 2.500 persone nel canale di Sicilia. Ma vediamo nel servizio e ascoltiamo quali sono le soluzioni europee in materia di migranti. Secondo i dati dell'Ufficio Statistico Europeo, l'Italia, tra quelli maggiormente coinvolti nel problema immigrazione, è anche il paese che respinge meno gli immigrati. L'accoglimento di un immigrato per motivi umanitari, tra l'altro, non è previsto in paesi come il Belgio o la Francia. Alla fine del 2013 l'Italia era al quarto posto in Europa per numero di richieste di asilo pendenti, cioè 27.930. Il paese europeo con più richieste pendenti era invece la Germania, con 125.705, seguita dalla Svezia e dalla Gran Bretagna. Nello stesso anno il nostro paese ha respinto il 36% delle richieste d'asilo. La Germania invece ne ha respinte il 74%, la Francia l'83% e la Svezia il 47%, la Gran Bretagna l'82% e il Belgio il 68%. A questo quadro va poi aggiunto che i singoli paesi provvedono a gestire l'emergenza immigrazione in quasi completa solitudine. Manca infatti una reale politica europea che si occupi del tema. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È davvero difficile quantificare il fenomeno della corruzione in Europa. Secondo il rapporto di Transparency International, in fatto di corruzione l'Italia si colloca in coda alla classifica dei paesi d'Europa e dei membri del G20. E in base ad uno studio di questa organizzazione globale contro la corruzione, ci sono addirittura 7 nazioni, tra cui Spagna, Portogallo e Grecia, in cui la protezione e la possibilità di denunciare la corruzione è praticamente assente. In ben 16 paesi, invece, tra cui l'Italia, le leggi provvedono solo parzialmente a difendere chi denuncia illeciti dall'interno, mentre nel Regno Unito la tutela contro la corruzione è avanzata, basta una segnalazione. Anna Marino ha intervistato il presidente di questa associazione, Virginio Carnevali. Quali sono le pratiche in Europa e in altri paesi che possono essere utilizzate anche in Italia per la denuncia della corruzione? Beh, innanzitutto direi che la cosa principale è la trasparenza e la semplicità e la semplificazione. Dove ci sono procedure complesse, lì si infila il corrotto e il corruttore. Dove le procedure sono semplici è molto più facile che tenerli a margine. Come noi sappiamo, in Italia abbiamo una legislazione completamente, assolutamente ferraginosa, e questo secondo me è un fatto. L'altro fatto è la trasparenza: più dati vengono resi pubblici e maggiore è maggiormente ci può tenere ai margini il problema corruzione, che peraltro non potrà mai essere ovviamente totalmente eliminato. Queste sono due cose. Un'altra cosa estremamente importante è la lunghezza dei processi, induce a corrompere. Okay, poi ci sono altri sistemi che sono posti in essere, come ad esempio il whistleblowing, che è la tutela di chi all'interno di un'istituzione segnala problemi possibilmente corruttivi. Cioè è chiaro che se questa è la certezza delle prove va direttamente dal magistrato. L'Unione Europea ha detto di essere pronta a collaborare al stretto contatto con il neoeletto presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, ma lo ha esortato ad assicurare il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto. Ex generale capo delle forze armate egiziane, al-Sisi è stato eletto, lo ricordo, con il 97% dei voti la scorsa settimana, circa un anno dopo aver deposto il suo predecessore maggiore, il leader dei fratelli musulmani Mohamed Morsi. È tutto per Europa 24, vi ha parlato Daniele Biacchesi. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.